dalla Sardegna fa, chiamateci, sintonite in ascolto. Brecco, brecco. Non ci arrivi, no. Chi è? Chi è là? Avanti, attenzione, canale 10, canale 10, Italia, Nord Sardegna fa chiamata, cambio. Attenzione, canale 10, cambio. Attention, attention, my friend, Italy from Sardinia, from Sardinia. Attenzione, fuochino. Chi è? Avanti. Con chi parlo? La tua qualcuno. Chi è lei? Scusi. È un altro avvocato che non ci arrivi, attacca per pensa, questa è una propagazione. È solo, diciamo, la finta propagazione. Vabbè. Non ti preoccupare tu, che già ci arrivo io. Sono arrivato in posti più lontani di... Se poi non arrivo, pazienza, stavo provando. Ovviamente stavi provando. Prova tu a vedere se ci arrivi. Magari da Osilo. Magari da Osilo riesci a arrivare. Sì, domani, domani. Spagnolo, ha sentito lo spagnolo? Ah, un culo in cielo! Non è spagnolo. Quello che c'è capito è lo spagnolo. Attento, mio hermano, se va a l'isola della Sardinia, adelante, ve lo comprendito, per favore. Falsa propagazione, ragione tu, li sentiamo noi e loro non ci sentono. Lui non è, diciamo, proprio una potenza. La propagazione, diciamo, come si deve, propagazione così, ma... niente di particolare. Ehi, non è entrato nessuno stasera. Ma che io sono sceso già da più di un paio d'ore qua, ma non ho sentito nessuno, nulla, niente, zero denaro. Come ti sto arrivando, dammi un cuore carta per chiedere. Prova. Allora, vedi un po' come ti sto arrivando, mi segnalo la radio, vedi un po' dove te la prova, vai. Santiago è 9, ma la radio, boh, non mi piace, è troppo cuffa, boh. Forse perché sto parlando un po' vicino al microfono. Adesso mi sono allontanato, vedi adesso come la radio, 1, 2, 3, prova. Adesso è più chiara. Perché mi sono allontanato dal microfono, adesso sono troppo. È un po' particolare, se mi avvicino troppo fa la modulazione troppo, diciamo, tanto la radio. Bisogna... conosce lo prende questo microfono, ok? Che microfono è? Un microfono palmare. Ma amplificato? No, non è amplificato, però c'è un tono anche, per cambiare, ma se cambia il tono, boh, se la fece, non lo so. Prova a vedere! Vedi un po', l'ho cambiato, l'ho messo in un'altra posizione, vedi un po' com'è, ci ha migliorato, ci ha peggiorato. Uno, due, tre, prova. C'ha più acuti, però non mi piace, dai, non mi piace. Non mi piace come microfono. L'altra è un po' meglio, ma non assai, non mi piace manco l'altra. Babbo, vai, ci sentiamo, che sto scendendo giù a portare il cane. Buona serata. Ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao.